Il 12 maggio, nell'anniversario della vittoria al referendum sul divorzio, i radicali decidono di infrangere il divieto del ministro dell'interno Cossiga e convocano una manifestazione spettacolo che parte da Piazza Navona. I compagni e le compagne decidono di partire in corteo, durante il quale una giovane compagna, Giorgiana Masi, viene uccisa da un colpo sparato dalla polizia. Dopo 40 anni, ricordiamo Giorgiana e lottiamo contro la violenza patriarcale dello Stato che l'ha uccisa. La Questura di Roma ha precisato che le forze di polizia impegnate nella circostanza non fecero uso di armi da fuoco, salvo che dei mezzi per il lancio di cantelotti lacrimogeni. A pochi metri da dove si consumò quel femminicidio di Stato, il 3 maggio del 2017, Nian, lavoratore immigrato dal Senegal, viene ucciso dalla violenza istituzionale. Venerdì 12 maggio, ore 18, non una di meno Roma organizza manifestazione in Piazza Belli, davanti a Ponte Garibaldi. Vieni qua, vieni qua! Venerdì 12 maggio, ore 18, Piazza Belli. Partecipiamo in massa. Copritevi dietro ai mezzi e aspettate.